E dunque, eccoci qua, allora scusate per questi piccoli inghippi, ma in realtà c'ho qualche problemino qui col mixer, quindi purtroppo sono costretta a mandarvi ancora un brano e ci risentiamo fra pochissimo, ma non disperate, sto per arrivare e partire con questa nuova puntata di Nervature, tra pochissimo. Pedras preciosas y lo está en el labrado con una piel de pedras preciosas. Viene, me va a rimar. Ci si riprova, eccoci qua, entrato in voce finalmente. Oggi è lunedì 17 giugno, come vi dicevo stavo avendo qualche problemino tecnico, ma sembra bene o male essersi risistemata la situazione, quindi eccomi qua, Addu con questa vocina un po' fievole, oggi appunto lunedì 17 giugno, 19 e un quarto nel mio universo, non so nel vostro, scusate per questo ritardino. Oggi sono di nuovo da sola qui in regia, ma quindi sarà una puntata diciamo di così inizio alla stagione estiva, che sappiamo sempre tutti bene che è più rilassata, più tranquilla, meno frenetica, e quindi noi cerchiamo di interpretare questi sentire estivi in modo da così riuscire a cullarvi per bene in questo fine pomeriggio e inizio serata. Quindi cosa farò oggi? Vi proporrò l'ultimo o quasi ultimo ultima, scusate, puntata riguardo al libro E il giardino creò l'uomo, che già ormai conoscerete benissimo. Quindi finiremo di leggere questo meraviglioso libro e poi vediamo a che punto saremo arrivati, visto che già ho perso un po' di tempo. Ascoltando Yasmin Levy, questi erano due brani suoi, quindi Mano Suave e Irme Quero. Ed eccoci, quindi noi continueremo a farci accompagnare da queste sonorità arabe, come sentirete fra poco. Ma ricordo prima a tutte e tutti tutto, ovviamente, che siete su Radio Wombat, Radio Wombat che è l'unica radio autogestita e libera di Firenze, quindi mi raccomando, seguiteci, sosteneteci e diffondete soprattutto le nostre frequenze, che sono 13.59 per quanto riguarda la modulazione di ampiezza, e invece lo streaming da appunto radiowombat.net, il nostro sito web che ormai conoscerete benissimo e da cui infatti saprete già che potete trovare tutti i podcast di tutte le puntate. Scusate, ogni tanto la voce vacilla. E invece potete trovare anche il link per il pad, che è il foglio di testo con cui potete chiacchierare con me in diretta, precisamente dalla sezione contatti, e il link è diretta@wombat.vado.li. Come vi dicevo, oggi sono qui quindi a leggervi gli ultimi due capitoli del libro E il giardino creò l'uomo, dello scrittore Jorn de Précy. Quindi direi che iniziamo subito, ovviamente, con un doveroso tappetino di sottofondo. Greystone. Se percorrete la strada che parte da Chipping Norton e si dirige a Oxford, alcuni chilometri dopo il villaggio passerete proprio accanto al mio giardino. Ma non lo vedrete. Noterete sulla sinistra una fitta macchia di alberi che unicamente la grande varietà nei toni di verde distinguono, ma solo all'occhio esperto, dalla foresta tutta attorno. Greystone è un piccolo parco situato ai piedi di una ripida falesia e si estende su un terreno in lieve pendenza verso la pianura. Se è poco distinguibile dall'esterno, è perché ho piantato decine di alberi al di qua e al di là del muro di cinta. Perciò, dal momento in cui varcate il cancello, dimenticate lo spazio circostante. Le strade che in lontananza conducono alle fabbriche di Chipping Norton, il treno sferagliante che avete preso per venire, le misere città e le vite solitarie che vi si conducono. si è trattato di una scelta deliberata da parte mia. Si è trattato di una scelta deliberata da parte mia quando ho piantato il giardino? Creare un universo chiuso dove la bruttezza del mondo moderno, della storia stessa, non potesse entrare, in modo che la gioia di cui il giardino è capace risultasse ancora più intensa? Non saprei. Resta il fatto che il mio giardino è separato dal mondo, come se fosse circondato da mura invalicabili. La densità delle piante diminuisce mano a mano che ci si avvicina alla casa, ma resta naturalmente, a eccezione dei prati, importante. Forse avvertirete, se siete amanti dell'ordine, un certo malessere di fronte a questo ammasso talora inestricabile di tronchi e rami. Se siete amanti della poesia, e soprattutto di quella poesia sconvolgente, profonda, di cui la natura è tanto prodiga, ne godrete. Accanto alle querce, ai tassi e agli aceri caratteristici delle nostre foreste, ho piantato cedri del Libano e dell'Himalaya, ormai abbastanza imponenti, cipressi calvi per il color bronzo del fogliame autunnale, e due o tre faggi rossi, non di più. Oh, non saprei dire quanti alberi ho piantato da quando questa avventura è cominciata, ma li conosco tutti, uno per uno. Stanco della vita politica e di Roma, l'imperatore Adriano ricreò all'interno della sua villa di Tivoli i luoghi dell'impero che amava di più, come il meraviglioso canale del Canopo, in Egitto. Quando ho iniziato a piantare, ho pensato spesso a lui. Quanto comprendevo il suo desiderio di riunire attorno a sé i suoi paesaggi dell'anima. Lo scrittore francese René de Chateaubriand fece la stessa cosa nel luogo dove aveva preso residenza, in una foresta dei dintorni di Parigi, per sfuggire all'ostilità di Napoleone. Ogni pianta del giardino, come spiega all'inizio delle Memorie d'Oltretomba, gli ricordava uno dei paesi che l'avevano impressionato nella sua carriera di viaggiatore: il Nord America, la Grecia, la Terra Santa. Per il poeta, come per l'imperatore, il giardino era un luogo di rifugio della storia, dalla storia. Uno spazio in cui l'amarezza si trasformava, per magia, in felicità. Un luogo dove ritirarsi dal mondo per consacrarsi alla meditazione, all'arte, alla consolatio filosofie. Ancora oggi, nei vivai, scelgo gli alberi destinati a Greystone sulla scorta di queste riflessioni. Così non ho potuto trattenermi dal piantare alcuni lecci e, accanto alla casa, ben riparati dai venti del nord, persino un paio di cipressi. Quando passo lì vicino ripenso alle ore di beata solitudine trascorse in gioventù nei giardini d'Italia. Le betulle mi ricordano la mia isola natia, dove non metto piede da più di 50 anni. Certe varietà di rosa, come Souvenir d'Anami o Félicité et Perpétue, piantate come rosai selvatici in mezzo ad altri arbusti o rampicanti sugli alberi, mi fanno pensare ai pomeriggi nei sontuosi vivai dell'Île-de-France, veri e propri paradisi del giardiniere. Un pino dal tronco torturato evoca i paesaggi della Cina che non ho mai visto e probabilmente non vedrò mai. Per raggiungere la casa, attraverseremo il giardino propriamente detto. Non ho ridisegnato i vialetti del notaio. Mi sono limitato a far togliere l'orribile pavimentazione in granito a ventaglio per ritrovare la terra, alla quale ho mescolato ciottoli e sabbia, così che diventassero veri e propri sentieri. Il giardino si attraversa con la sensazione di essere in aperta campagna. quanto ai fiori, lo sapete già. Sono votato in tutto e per tutto alle rose. Rampicanti, a cespuglio, ad arbusto, persino nane. Ho evitato unicamente quelle vistose e artificiali di moda. Le mie sono quasi tutte non rifiorenti e quindi hanno una sola fioritura, in primavera. Ma da maggio a giugno la presenza dei loro fiori è talmente intensa che non si vedono che i loro petali bianchi o rosa pallido, i loro stami dorati, non si sente che il loro profumo. Le ortensie in arbusto danno loro il cambio alla fine di giugno. Non offrono che un pallido ricordo, un po' melanconico delle rose, ma è per questo che le amo. Infine, in autunno, è il momento delle numerose varietà di aster, che creano macchie di colore contemplative e solenni, come la stagione richiede. Tutte queste piante si mescolano felicemente con i fiori selvatici. La rosa sboccia a fianco dell'ortica, svelandone la bellezza nascosta, rustica e ombrosa, che purtroppo resterà per sempre inaccessibile all'amante dell'ordinato e del grazioso. È soprattutto nei prati che si dispiega la vita spontanea del giardino. Al riparo dall'erba alta, per tutta l'estate, fioriscono i ranuncoli, le margherite, le veroniche, i fiordalisi e i papaveri. A paragone, la scena più bella, più fremente e colorata che si possa dipingere in un quadro impressionista vi sembrerà immobile e priva di vita. Ciò che mi riempie di orgoglio, però, è la presenza di 6 varietà di orchidee selvatiche che ho visto arrivare nel corso degli anni. Passeggiare in questo prato è come attraversare un territorio vergine, formicolante delle innumerevoli vite invisibili di insetti, roditori, rettili e Dio sa cos'altro. La grande casa sorge a diretto contatto con questa natura in libertà. Le cime degli alberi la sovrastano. I muri sono ricoperti di rose, glicini, clematidi, edera e caprifoglio, che occultano la mancanza di carattere della dimora del notaio. Il risultato, lo ammetto, è singolare. È vero, dovrei potare più spesso. Alcune persiane sono ormai prigioniere dell'intrico dei rami e talvolta mi capita persino di scoprire che una liana del gelsomino è penetrata a sorniona nella mia camera da letto. I rami del glicine non di rado si divertono a strappare le tegole, che bisogna avere la pazienza di risistemare. Ma è così che la amo, questa casa, e la compagnia di queste piante mi è divenuta indispensabile. Anche in questo caso, il visitatore che ama i giardini convenzionali rimarrà un poco sconcertato. In questa mescolanza di costruito e vegetale vedrà solo l'eterna lotta che oppone l'uomo alla natura, con un netto e inquietante vantaggio a favore della seconda. Ma che noia questa vecchia lotta, che in realtà esiste solo nella mente degli esseri umani. No, nell'architettura vegetale della mia casa vi invito a leggere piuttosto un accordo, un'alleanza, la forma visibile di un ritrovato amore fraterno. Così ho fatto in modo che l'interno della casa somigliasse il più possibile a uno spazio aperto. Ogni tanto la mia amica Gertrude Jekyll mi aiuta ad adornare i saloni con fiori e frutta del giardino. Insieme ci divertiamo a disporre rami secchi in modo che paiano uscire dai muri, come se il giardino si fosse aperto un passaggio verso l'interno della casa. Al pian terreno ho trasformato una stanza dotata di grandi vetrate in giardino d'inverno. Qui crescono in vaso felci arboree, gardenie e ibischi. E dall'altra parte dei vetri c'è sempre il giardino, che bussa contro i vetri come se volesse entrare. Dietro la casa c'è l'altra zona del giardino, il bosco. Esso si fa sempre più fitto mano a mano che si cammina in direzione della falesia. È la zona più aspra e solitaria e pochi tra voi sarebbero disposti a chiamarla giardino. Da secoli le querce vi crescono indisturbate. Quanto è stato difficile disboscare e aprire un poco quest'area, creando stretti sentieri attraverso la prigione di rami. Quando ho cominciato a occuparmene, ho ripensato ai giardini italiani, alle loro sculture immerse in una vegetazione esuberante. Come ricreare quella magia a Greystone? I finti giardini antichi di cui ho parlato poche pagine addietro, già di moda a quell'epoca, mi facevano orrore. Così ho deciso di evitare, come la peste, le imitazioni di sculture antiche. Il mio bosco sacro doveva essere comunque un luogo selvaggio, cosa che mi avrebbe permesso, tra l'altro, di non aver bisogno di un esercito di giardinieri per mantenerlo. Il desiderio di mostrare la divinità nascosta di questo angolo di terra restava però forte. Senza rifletterci troppo, iniziai a fabbricare oggetti assemblando rami e mi accorsi che stavo costruendo degli altari. Molto rudimentali, certamente, ma comunque degli altari. Li sistemai un po' per volta in diversi punti del bosco, mezzo nascosti nella vegetazione. Sono luoghi sacri, dedicati a esseri fatati che non saprei nominare. Poi ho cominciato a scolpire le pietre che nei lavori di piantumazione mi capitava di estrarre dal terreno. Dei volti hanno iniziato a prendervi forma, fattezze vagamente familiari, provenienti dai miei ricordi o dai miei sogni, che trovavano rapidamente posto in una radura o ai piedi di una pianta secolare. Talvolta una testa di divinità che tenevo tra le mani prima di deporla su una pietra del giardino mi spaventava. Non la riconoscevo come una creazione della mia mente. E allora ripensavo al mio amico principe vicino Orsini, che solo nel suo bosco di Bomarzo, certe sere, contemplando il giardino e i suoi mostri, sicuramente aveva provato una sensazione simile. Mi divertivo con quelle sculture, certo, ma perché mai uno crea un giardino se non per divertirsi? A quel tempo vivevo da solo a Greystone. La mattina disboscavo, abbattevo, trapiantavo e potavo decine di alberi. E il pomeriggio scolpivo in perfetta solitudine. Sono convinto di non aver mai provato in vita mia un piacere tanto grande. Attorno a me la foresta risuonava di mille voci. Le mie braccia lavoravano al ritmo della natura. Ero un uomo felice. Ma sarebbe un peccato terminare la visita senza un giro nell'orto. Dopo la rustica solitudine del bosco, penetrerete ora in un luogo pieno di sole, in cui la natura nutre l'anima altrettanto bene che il corpo. Forse è la parte di Greystone che preferisco, non so bene perché dietro questo filare di meli si nasconde il cottage del mio giardiniere. Anche questa costruzione si è poco a poco ricoperta di rampicanti, ma è stato Samuel stesso a volerla così, non io. Qui è casa sua. Sul lato un pergolato coperto di viti. Lì, certe sere estive, lo vedo scrivere con grande fatica qualcosa sul suo taccuino. Forse tiene il diario del nostro giardino, come ho sempre sognato senza mai trovare abbastanza coraggio per farlo. Davanti alla casa sono allineati i quadrati di terra dell'orto. Non è un orto grande, per due persone è più che sufficiente. Le verdure, di sapore eccellente, sembrano anch'esse crescere allo stato selvatico. Anche qui, un'ultima volta, il lettore potrebbe fare una smorfia incredula. Cosa? Lei chiama questo un orto? Ogni tanto le capita di strappare le erbacce. Come può crescere l'insalata in mezzo a tutte queste cattive erbe? E perché piantare anche qui delle rose come se non ce ne fossero già abbastanza? Sinceramente, non ho più voglia di dare spiegazioni. Sarà l'età, senza dubbio. Ci si affatica prima. E poi la visita è praticamente terminata, così come questo breve trattato che forse somiglia anch'esso al mio giardino di Greystone. Svelti allora, arriviamo alla fine. بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي عيال في ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية احكي لنا عالجنة احكي لنا عالنار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك ما تزيد ما تنقص من عندك كالي شفا ولا بلاك حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية quindi concludiamo il libro E il giardino creò l'uomo di Jorn de Prissy con l'ultimo preziosissimo capitolo dal titolo giusto appunto Conclusione. Rileggendo queste pagine, scritte nel corso degli ultimi mesi, mi dico che se ho redatto questo trattato è solo per affermare che nel grande deserto che è diventato il mondo degli uomini non ci resta che il giardino. È il luogo più prezioso e più fragile della terra, l'ultimo rifugio. Che futuro lo attende? Non ci si è mai interessati tanto a quelli che spesso sono chiamati, con un'espressione che più spaventosa non si può, spazi verdi. Nei moderni quartieri e nelle periferie più grigie e impersonali delle città, i nuovi parchi spuntano come funghi. La quantità di piante di cui disponiamo oggi supera di gran lunga i sogni più folli dei giardinieri del passato e continua a crescere. Le riviste di botanica si moltiplicano e gli elenchi dei loro abbonati si allungano. Le tecniche di giardinaggio non smettono di evolversi e di offrirci nuovi strumenti che ci permettono di lavorare più in fretta e di risparmiare denaro ed energie. Nella nostra epoca, però, il giardino resta un estraneo o un sopravvissuto. Abbiamo visto che nella società moderna non ha un vero spazio, perché incarna tutto ciò che la civiltà occidentale ha lasciato dietro di sé. La poesia, la libertà, la felicità profonda, semplice dell'esistenza. La fine della mia vita si avvicina e il futuro del mio giardino mi preoccupa. Sembra ben protetto dietro i suoi muri e le cortine d'alberi, ma io so che è molto vulnerabile. Basterebbero pochi anni di abbandono per farlo sparire dalla faccia della terra. Mi preoccupo anche degli altri bei giardini che ho conosciuto, dove sono maturato e ho appreso tutto ciò che conosco della vita, dell'arte e della natura. Che ne sarà di Bomarzo se un giorno qualcuno deciderà di ripulire il parco trasformandolo in meta turistica? Cosa resterà della sua anima? È il mio caro parco di Seo? È già stato riabilitato? Domandarsi cosa ne sarà del giardino significa domandarsi cosa ne sarà dell'umanità. Tanto intimo è il legame che tra giardino è il legame tra giardino e uomo. Da qualche mese i giornali parlano di guerra. La prossima, dicono, grazie ai progressi della tecnologia, sarà la più distruttiva di quelle finora conosciute. Io penso a quell'altra guerra, nella quale ci impegniamo quotidianamente senza saperlo, assorbiti come siamo dalle mille incombenze quotidiane. Sto parlando della guerra che abbiamo dichiarato alla vita, di questo conflitto. I danni della società industriale e materialistica sono le forme più evidenti. Il distacco dalla natura, la sua conseguenza più profonda. Quando la prossima guerra sarà finita, ce ne saranno altre e il progresso continuerà nella sua corsa e la terra diventerà uno spazio sempre meno abitabile. Poco a poco, probabilmente, gli uomini si risveglieranno, come dopo un'ubriacatura, e si renderanno conto dell'errore commesso voltando le spalle alle loro origini. Vedremo finalmente che in fondo al deserto c'è solo un deserto. Sarà troppo tardi. ci sarà ancora un giardino accanto a noi per dirci che sì, possiamo ritrovare la strada giusta, quella del ritorno. Nonostante tutto, la risposta che scaturisce dalla mia anima è sì, i giardini sopravvivranno, io ne sono convinto, finché ci saranno esseri umani che cercano di rinnovare un dialogo con la natura, ci saranno veri giardini e quindi una speranza. Sopravvivranno come luoghi di dissenso. Non hanno già adesso questo ruolo che non avrebbero mai pensato di dover sostenere? Il giardino non è mai perduto. Così, essendo troppo vecchio per credere alle rivoluzioni, non avendo mai avuto gusto per i manifesti politici, io non raccomando che una forma di ribellione, il giardinaggio. Fate giardini, veri giardini, naturalmente, luoghi indomiti, fuori legge. Io che sono sempre stato allergico alla civiltà con questo sangue di barbaro dell'estremo nord che mi scorre nelle vene, ho curato un giardino selvatico. Voi scegliete lo stile che vi si confà. Tracciate il vostro disegno sulla faccia della terra, che si presta sempre volentieri ai sogni dell'uomo. Piantate un giardino e prendetevene cura. E proteggete anche quelli che restano e resistono. I vecchi luoghi abitati dalle piante che arrivano da lontano e continuano a sognare, nonostante l'insensato baccano che li circonda. Lavorate con i poeti, i maghi, i danzatori e tutti gli altri artigiani dell'invisibile per rimettere al suo posto il mistero del mondo. Ciò facendo, affronterete le forze contrarie che oggi sembrano più potenti che mai. Non opporrete al sistema vigente un'ideologia o un progetto politico, ma un semplice luogo con i suoi semplici valori. Non avrete il desiderio assurdo di cambiare il mondo. Farete solo un piccolo spazio alla vita. La natura vi offre questa possibilità. Sicuramente non sarete soli in questa battaglia, benché sia improprio definire battaglia quest'opera tanto gradevole, dolce, colma di belle sorprese e di ricompense che è il giardinaggio. Gli dèi sono dalla vostra parte. Sì, quegli dèi che si è voluto scacciare, anche loro esuli sulla terra, ma sempre infinitamente più saggi dei mortali. Stanno aspettando gli uomini, sorridendo dei loro errori e delle loro speranze, dietro il cancello aperto del giardino. Era una escultura de oscuro metal, su mata de pelo igual que la endrina. Llevaban dos tiempos, prendía una flor y era la gitana más guapa y más fina que el lienzo ha llevado aquel gran pintor. Cuando su imagen la gente admiraba, el pobre gitano así le cantaba. Mari Carmen de Camelo, porque tú eres la clavallina que desde la tierra al cielo tú lo trasminas, tú lo trasminas. Tu palabrita nacen clavales, nacen clavales, Mari Carmen, déjame que yo, ay te camele, que te camele. caramelle. Desprecio al gitano y lo abandono. Y aunque la fortuna tuvo entre sus manos, de nada valió que al verse tan lejos de quien la quería, no halló en el dinero la felicidad. Y al ir por el mundo perdió su alegría, como aquella flor que son trasplantadas. Y viendo el retrato que el mundo admiraba, el pobre gitano así con duque la le cantaba: Mari Carmen de Camelo, porque tú eres la clave china que desde la tierra al cielo tú lo transmina, tú lo transmina. De tu palabrita nacen clavales, nacen clavales, Mari Carmen. Déjame que yo te camele. Carmina y Rosa, tu cuerpo huele, ay, tu cuerpo huele a friquita. Déjame que me yo, ay, te camele. Il libro si conclude con una preziosissima nota dell'editore. Dal 1912, anno della sua pubblicazione, questo breve e brillante saggio circola quasi clandestinamente in Inghilterra. Bisogna stupirsi se fino ad oggi è rimasto ignoto fuori dai confini di quel paese? Senza dubbio. A meno che il suo curatore, fine conoscitore dei giardini inglesi del XIX secolo, non ne sia il vero autore. Balance, yeah, balance. fechas os olhos e danças só para mim, sabão. Uma dança tua mistura de não vem que não vem com um sorriso, porém que me diz que o teu desdém é só a manha de alguém que diz que vai, mas que vem. Me engana que eu gosto. Avete sentito questi due ultimi bellissimi brani che erano Teca Melo di Buica, invece la meravigliosa Sara Tavares con Balancé, musica che veramente ce l'ho, ho nel cuore e sempre mi ci resterà, bellissima, e l'ho proprio scelta apposta infatti per la conclusione di questo, la lettura di questo libro, che è, allora le do diciamo un po' tutte le specifiche. Si tratta di E il giardino creò l'uomo, però il cui titolo originale è The Lost Garden o Jardin Perdu, che vuol dire la stessa cosa. Infatti è stato pubblicato inizialmente in francese, se non mi sbaglio, nel 2012. E l'edizione da cui ve l'ho letto è l'edizione di Ponte alle Grazie Saggi, e quindi appunto l'autore presunto è Jorn de Pressy, ma abbiamo appena scoperto insieme, quindi sono stata brava a non farvi spoiler fino adesso, che in realtà questo simpatico signore Jorn de Pressy è tutta un'invenzione. Ed è una invenzione del curatore del libro, che è Marco Martella, a cui già ho dedicato un'intera puntata qualche mese fa, quindi vi invito ad andarla a rispulciare, soprattutto adesso, soprattutto ora che avete finito di leggere insieme, o insomma ascoltare insieme a me, questo bel libro, che è il suo libro senza dubbio più famoso, più importante. Quindi in quella puntata avevo un po' ripercorso anche la storia di questo personaggio Jorn de Pressy, che è un personaggio totalmente di finzione, ma molto ben elaborato, e quindi avevo anche ripercorso il motivo per cui Marco Martella, il vero autore di questo libro, ha deciso di diciamo mascherarsi dietro a questa figura. E quindi era soprattutto per dare un, diciamo, un'impronta speciale al racconto, quindi era per connotare in modo preciso questo tipo di saggio, questo tipo di opinioni, di riflessioni, di spiegazioni, tramite anche la figura particolare che era questo personaggio, Jorn de Pressy, quindi questo personaggio molto introverso, anche probabilmente antipatico, no? Molto sulle sue, ma allo stesso tempo intellettuale, allo stesso tempo solo, ma viaggiatore, ma amante del mondo, quindi un po' una personalità così, un po' poetica, se vogliamo. Quindi, che dire, questo è un libro molto importante per tutti i giardinieri, perché all'interno di tutti i suoi capitoli, che non sono molti, è un libro di un centinaio di pagine, quindi si legge in un pomeriggio volendo, nonostante io ci abbia messo 4 puntate. appunto, all'interno di tutti questi capitoli, tutte queste pagine, sono esposte varie visioni della vita, visioni del mondo che Marco Martella, a questo punto sappiamo che è lui il vero autore, ha e che ha elaborato comunque durante tutto l'arco della sua vita, e che sono quello che mi piace di più di questo libro personalmente, che sono opinioni del mondo personali e umili, raccontate proprio in modo estremamente umile. Mi sembra anche all'inizio proprio venga detto anche in modo esplicito, e venga anche tra l'altro ribadito più volte, che i lettori saranno un po' tenderanno così a essere un po' rigidi, a discostarsi, a non capire quello che c'è scritto, o comunque a ritenerlo insensato e soprattutto superfluo, il che può succedere. Effettivamente ho avuto questa sensazione anch'io all'inizio, ma proprio perché ti viene detto fin da subito nel libro che guarda, so che lo leggeresti così, proprio per questo ho detto bene, allora liberiamoci invece di tutti i pregiudizi, se vogliamo, e questo proprio per riuscire a calarmi in una visione diversa delle cose, della vita, del mondo di quest'altra persona. Quindi quello che mi è piaciuto tantissimo di questo libro è che espone appunto tante visioni del mondo con cui in alcuni casi io sono d'accordo, in altri meno, in altri le sento più affini a me, altre meno, e nonostante questo però è un po' come se parlassi con una persona di un'altra cultura, che ha certamente delle basi ideologiche appunto culturali e tradizionali diverse dalla mia, ma che però con tutte le esperienze, le riflessioni eccetera, comunque risulta avere una visione delle cose interessante e soprattutto veramente autentica, ecco. Oltre a questo, vabbè, comunque oltre a questo per me ci sono davvero delle parti, delle chicche veramente di una finezza e, ripeto, sempre un'umiltà veramente uniche. E poi anche questa, buffo perché questa umiltà l'avete sentito dall'ultimo capitolo, anzi l'ultimo capitolo che è la conclusione, in realtà si sposa anche con una grande forza di linguaggio in alcuni casi, quindi se vogliamo fare una rivoluzione facciamo giardini, fate giardini, quindi questa forza di linguaggio che comunque contraddistingue anche il libro, soprattutto delle parti, ma delle parti molto ben studiate, secondo me, è anche certamente una sua forza. Quindi, che dire, io vi consiglio comunque di comprarlo o di perlomeno una volta leggerlo diciamo, da voi, perché magari vi prendete più il vostro tempo, non so che. Ma chiaramente, ovviamente mi devo anche fare pubblicità, quindi certamente andate anche a risentire le altre 3 vecchie puntate. E, che dire, quindi sono arrivata alla fine, ma chissà se ho qualche idea riguardo al ritirare fuori alcuni dei temi. Ora non voglio essere noiosa, sinceramente non vorrei mostrare la mia infognataggine, ecco, a volte, però diciamo che appunto ho qualche idea di puntata per qualche prossima puntata su alcuni dei temi di questo libro, ma vedremo con calma, e soprattutto vedremo e scopriremo tutto insieme, visto che, come sapete, ormai è sempre una scoperta anche per me il tema di cui parlerò a ogni puntata. Allora, sono le 20:09 qui nel mio universo, in questa regia, quindi avrei ancora un po' di tempo, però direi che collegarci a altri argomenti sarebbe altro che dissonante, quindi io sinceramente preferirei mandarvi ancora un po' di musica piacevole e soave e poi salutarci a breve. tu padre viene. Con un'enciale grigia. Sei alla grande Côté les Vikings, Ambert Tamis, Fanette et sa famille, finissent d'arriver le matin à l'est, il durait 4 à 6, pique-nique souriant au ouest, vent sud-est revenant sur ses fesses à midi près du cap. Pour Fanette ce lundi, vent d'ouest récré 3 à 5, puis fraise et champ 5 à 6, mer joyeuse en fin d'après-midi. Pour Ambert et Tamise, odeur forte, des pleurs, des cris 4 à 6 le soir, puis vire en nord-ouest, mer calme devenant agitée 6 à 8, débordée par ses enfants, des averses, des rafales sur l'île superposée, montée chromatique sur Ouessan, père à l'ouest malgré lui, venant lui prêter main forte, mollissant 3 à 5 cette nuit sur 7, revenant sud le matin. Show me the way, slaves of the sea, is there a swirl, an oyster pearl inside of me? Show me the way, why an x-ray, right through my bones, is there a home where you can stay? Show me the way, Wi-Fi's and wells, wires and bounds. Quindi, come vi dicevo, eccoci qua alla fine di questa altra puntata di Nervature. Quindi siete stati qui con me appunto su Nervature, che è la trasmissione di Radio Wombat che vi parla di piante, giardinaggio, botanica, progettazione, a volte anche urbanistica e paesaggismo, chi più ne ha più ne metta. Oggi abbiamo finito quindi l'audiolibro di E il giardino creò l'uomo di Jorn de Précy e quindi vi saluto questa volta un po' in anticipo con un ultimo brano. Quello che avete sentito prima era Waves di Camille e adesso invece vi saluto con Maya di Sushila Raman, bellissimo brano anche questo, e quindi ci risentiremo lunedì prossimo come sempre ovviamente alle 19 con Nervature. Spero di ritrovarvi numerosu qui su Radio Wombat, ma mi raccomando rimanete anche tutto connesso sulle nostre frequenze 13:59 AM oppure radiowombat.net per lo streaming e per il proseguimento del palinsesto di stasera. Ancora a tutte e tutti una buonissima serata, ci risentiremo presto. Baci.